Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questo era il brano dei Behind Enemy Lines, brano che noi utilizziamo come sigla di apertura di questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, e andiamo in onda alle ore 20 fino alle ore 21:30 circa, oggi 2 maggio, giovedì 2 maggio, e andiamo all'ascolto ora di questa band belga, sempre stile crust punk. Loro sono i Link, una band belga che si era formata alla fine degli anni 90 e a quanto pare si è sciolta circa 5 anni fa, forse 6, insomma attorno al 2018, ma noi dall'album Duster, uscito nel 2011, ci ascoltiamo alcuni brani. Will not be

Un saluto a chi ci ascolta. Allora, giovedì 2 maggio, così in questa condizione di assediati, schiacciati, oppressi dalla società galera, oggi però abbiamo pensato di proporre così delle letture e dei pensieri, delle riflessioni di leggerezza e appunto delle così dei racconti di latitanza e delle considerazioni anche sulla latitanza, quindi sulla clandestinità, sulla scelta di andare in clandestinità. E lo facciamo a partire da un articolo del nostro compagno Stecco, appunto che ci racconta, con il rucksack in spalla, cioè con lo zaino in spalla, ci racconta un po' qualcosa della sua vicenda dei suoi 2 anni di latitanza. L'articolo è stato pubblicato sull'ultimo Germinal. Ebbene sì, il Germinal ha pubblicato un articolo di Stecco. E niente, io vi leggo delle parti, insomma, di questa testimonianza molto, sì, che è molto importante per come la vediamo noi, perché non solo così narra, insomma, in maniera interessante, diciamo, quella che è stata la sua esperienza personale, ma come spesso, insomma, succede quando Stecco scrive e parla, riesce a dare uno slancio, un entusiasmo, appunto anche una leggerezza alla lotta di tutte e tutti noi. E proprio questo compagno ha questa così dote, diciamo, no, intellettuale e emotiva, anche affettiva, di riuscire sempre ad unire appunto il pensiero e l'azione, e a trovare sempre delle chiavi di lettura della realtà e anche dei modi di vivere la realtà che insomma che volgono al positivo, cioè che ti fanno venire voglia di vivere e di lottare, insomma, di lottare perché la vita sia degna di questo nome. Allora, ci scrive Stecco: lo scorso 20 ottobre sono stato arrestato dai servizi speciali della Polizia di Stato, chiamati Nox, nel paese di Dolceacqua, in Liguria. Dopo 2 anni di latitanza, i repressori sono riusciti a trovarmi e a sbattermi in galera per svariati definitivi che mi attendevano. L'unica cosa che posso dire è che se ho commesso degli errori, ed evidentemente sì, solo davanti ai miei compagni e compagne risponderò delle mie possibili negligenze. Delle accuse dello Stato non mi interessa nulla. Lo ritengo mio nemico di classe, quindi non c'è nessun dialogo. Ora, trovandomi un'altra volta in prigione, mi ritrovo con un fitto scambio epistolare. In uno di questi una compagna mi ha chiesto cosa intendevo quando ho scritto in un comunicato che ero pronto a questo possibile arresto. Provo a rispondere a questa domanda esponendo anche alcuni dei motivi della mia scelta. Negli ultimi decenni in Italia il movimento anarchico è stato costantemente bersagliato da operazioni repressive, e tutto il movimento antagonista, il sindacato di base e le lotte dal basso in generale, viene trasversalmente colpito. Da vari anni anche le iniziative di agitazione e conflitto nelle strade con pratiche militanti, che decenni fa erano scontate e naturali nello scontro sociale tra sfruttati e sfruttatori ed i loro servi, si pagano con pesanti condanne e infinite misure di sorveglianza. Questa dello Stato italiano non è una tendenza, bensì un reale approccio metodologico reazionario, una sua esigenza per sopperire ai suoi intrinsechi danni sociali. Se si decide di lottare senza mediazioni, bisogna fare i conti con questa struttura repressiva, la quale basa i suoi criteri coercitivi in uno scontro che oggi è di basso livello, ma che è stato creato e consolidato in un'epoca in cui questo scontro era ben più alto e c'era una fetta consistente di sfruttati e sfruttate che lo animava, in mille forme e tensioni diverse. Una lunga fase rivoluzionaria e ribelle che spaventò governanti e padroni. Questa struttura ragionava sempre in termini controrivoluzionari, o come dicono loro, di insorgenza. sanno bene che i problemi creati dalla classe dominante innescano attriti in chi li subisce, e sanno che chi li subisce storicamente può giustamente organizzarsi e reagire anche violentemente alla mano che opprime. Per molti compagni e compagne si è instillata la consapevolezza che la galera è una cosa da prendere seriamente in considerazione come possibile esperienza. Quindi si preparano vademecum per la detenzione, si creano iniziative di svariato tipo sulle tematiche del carcere e della repressione, si analizza il sistema di controllo statale e l'evoluzione padronale nello schiacciare il dissenso in ogni suo aspetto. Oppure i sistemi tecnologici utilizzati dalla sbirraglia, le tecniche di persuasione ed accettazione di massa. Tutte cose giuste e importanti per far sì che chi finisce nelle maglie dello Stato sappia come affrontare sotto molti punti di vista il momento dell'arresto ed il periodo detentivo e processuale. Questo approccio, però, è tendenzialmente un modo, sicuramente serio, costruttivo e fondamentale, ma anche, direi, passivo, come se si attendesse il colpo senza provare a schivarlo, senza cercare di mandare a vuoto chi ci vorrebbe mettere le mani addosso. Ecco allora che coltivare dentro di sé, tra i compass più affini, la possibilità della fuga, del sottrarsi alle manette, al controllo onnipresente dello sbirro di turno, è cosa che si può fare. È un approccio mentale, oltre che una necessità, per chi magari dovrà affrontare anni di galera. Ma se si esclude a priori questa possibilità a livello collettivo, nell'immaginario comune, ecco che prendere questa strada sembra un miraggio, una cosa impossibile, anche solo da contemplare, un'esperienza vista come bella e romantica, ma non costruito e costruita e desiderata. Un modo di pensare, a mio avviso, molto deleterio per chi vuole sovvertire questo vecchio mondo. È naturale che chi lotta avrà sempre da nascondere qualcosa alla controparte. Se così non fosse, a me mancherebbe un aspetto fondamentale della lotta. Se non si ha un lato nascosto all'autorità, non si sarà mai pronti all'eventualità di un cambiamento radicale, sia nel vero senso rivoluzionario, sia in quello reazionario. I primi anni della presa del potere del fascismo dovrebbero, fuor di retorica, insegnare che le regole della lotta pubblica non sempre sono possibili o utili, anche tatticamente. Se non ci si tiene in esercizio nell'essere fuori dai radar della questura, quando arriva la necessità sarà tutto più difficile. La lotta così può diventare più imprevedibile, garantirsi dei margini di sicurezza, ma anche di efficacia e di soddisfazione. Farla in barba ai questurini è anche un modo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, senza metterci per forza il viso e quindi rogne giudiziarie. Rompere con la logica lotta uguale galera vuol dire anche creare motivazioni positive in chi ad essa si avvicina, perché crea un approccio propositivo, un ambiente protetto, ma anche vivace, che trova soluzioni rompendo le consuetudini stagnanti, evitando le cose facili, che però non spostano il peso sulla bilancia. Questo anche per non cadere in una logica ripetitiva di pratiche scontate a cui la polizia ha imparato a prendere le contromisure, e a noi rimane la sensazione di fare qualcosa, facendoci credere di incidere sulla realtà. Lo Stato sa molto bene come utilizzare questo strano volano a proprio uso e consumo, svilendo e fiaccando le nostre energie, portandoci allo sfinimento e tenendoci sotto pressione e con una visuale di disillusione e stanchezza. Hanno mezzi, personale ed esperienza. Noi abbiamo solo, si fa per dire solo, idee e la nostra forza di volontà, così preziose, ma che non bastano in una fase storica in cui la lotta è ai minimi termini, soprattutto in radicalità ed immaginazione. Quindi bisogna crearsi nuove strade, anche se al primo approccio sono faticose e rischiose, perché spesso lo sono. Sì, e qua a Zernis Magnetic stiamo appunto dando spazio a questo contributo di Stecco con El Rusak in spalla. Ognuno trova in se stesso i motivi di certe scelte, ma è in un contesto generale che esse si inseriscono, dove tra individui si discute di vecchie esperienze, lettura, analisi, ma anche delle esigenze, delle tensioni che possono accomunare compagni e compagne che per tante ragioni dicono basta. Che ritengono che non è più accettabile subire certi soprusi e nel vedere perpetrare delle ingiustizie più o meno vicine a noi. Per me, i morti nel carcere di Halden l'8 marzo 2020 sono stati una seria motivazione per dirmi: non mi consegno, non spontaneamente. A questo fatto più o meno personale, visto che quattro di quei morti li avevo conosciuti nel mio periodo galeotto in quel di Modena, si somma anche l'esperienza delle restrizioni durante il lockdown. Quella fase storica, appena finita, ha creato i presupposti per un clima bellico consolidato. La propaganda di Stato ha preparato bene le coscienze ed i cervelli delle masse ad accettare una crescente militarizzazione della società in ogni aspetto della vita sociale. Per contrastare questa pressione autoritaria bisogna anche avere mani e mente libere, e la latitanza dà tempo e spazio per avere dentro se stessi una certa leggerezza per affrontare certe situazioni. Ma questa può essere una valutazione molto personale. Questa scelta della latitanza libera degli spazi mentali e fisici che prima erano sconosciuti o che si fa fatica a toccare con mano. Per me era anche un'esperienza desiderata sotto vari punti di vista, sia come prova personale sia come necessità, con una forte sete di scoprire, anche se questa sete non poteva essere calmata da tutte le mie necessità e tensioni. Con il continuo attacco alla lotta, lo spazio si restringe, l'ambiente in generale si atrofizza ed è costretto a tutelarsi. Troppe poche persone oggi hanno nella mente la necessità di una lotta che esca fuori dalla logica legalitaria, fuori dal dialogo e dalla ricerca di mediazioni con le istituzioni per avere garantiti dei diritti o per opporsi a qualcosa che viene calato dall'alto o contro un'ingiustizia. Ancora più lontano è il sentimento di ribaltare tutto il tavolo dell'autorità. Basti vedere come nel tempo le manovre contro il mondo del lavoro e il cambiamento strutturale dell'industria con il nuovo paradigma industriale ed obiettivo del 4.0 non abbiano creato serie opposizioni a questa trasformazione di una più efficace estrazione di plusvalore padronale. Niente lotta, niente esperienza, niente immaginario. Rimangono la povertà, non per forza materiale, ed i piagnistei. Certe forme di resistenza e di lotta vanno coltivate senza sosta per prepararsi ad un incidere più pregnante quando si sente la necessità di reagire, di rivoltarsi, quando questa vita di veleni, paura e sfruttamento si percepisce come una gabbia da cui liberarsi. Eppure, contro il Green Pass abbiamo visto che migliaia di persone, con mille trucchi, trasgredendo decreti e leggi statali, ha cercato di non soffocare del tutto. Questo vuol dire che c'è un mondo sotterraneo che era assopito ed è emerso nel momento in cui l'ingiustizia si era percepita anche in chi la lotta non la percepisce come esperienza di vita. La necessità ha creato lo spazio, anche se limitato nel tempo e nella radicalità, per la fantasia ribelle, per sottrarsi alla morsa statale. Poca roba, dirà qualcuno. Bisogna guardare a 360 gradi. Nelle colonie francesi, ad esempio, le proteste sono state ben più radicali e determinate. Oggi viviamo in un mondo in cui le immagini e lo spettacolo sono al centro delle distrazioni della massa sfruttata. Lo schermo, in modo astratto ma efficace, ci trasmette sensazioni di una libertà costruita, in cui si crede di avere una propria vita in mano, nella libertà di scegliere, di decisione, dove la responsabilità di quello che accade viene sfumata in mille parole, senza capire chi e dove ci rende la vita abbruttita, isolata, dove l'emergenza è lo spettacolo perenne per tenere la gente sempre eccitata, occupata, ma anche annichilita e depressa. La latitanza mi ha dato invece la possibilità di rompere totalmente lo schema della vita imposta. Ci imprimono, sin da fanciulli, l'idea che per vivere bisogna lavorare per un salario, un tozzo di pane, rinchiusi tra quattro mura con TV a schermo piatto, in case sempre più domotiche e malsane, cibi in scatola, se te le puoi permettere le vacanze una volta l'anno, fare gli straordinari per pagare la macchina, il telefono, il divano e mille oggetti sempre più costruiti per essere gettati e sempre se ti va bene. Nel frattempo, sempre a nome nostro, si distruggono terre, si avvelenano acque per estrarre metalli o energia, si schierano soldati, si costruiscono macchine di morte, si gioca con la vita nei laboratori, si mantiene in piedi un sistema basato sulla deterrenza folle del nucleare o con armi batteriologiche, con il controllo delle sementi, eccetera. In sostanza, si deroga così la propria vita a chi da essa vuole solo spremere profitto e sottomissione. Non hanno limiti i bastardi sfruttatori, a meno che non gli vengano imposti a forza. La vita è ridotta al triste giro di lancette, dove ogni ora viene indirizzata al consumo, alla distrazione insulsa, dove non c'è più spazio per la riflessione che ci porti ad osservare dove sta andando questa società. Sfruttato ed incastrato nell'ingranaggio, chi deve giustamente preoccuparsi dei propri cari, avrà così poca energia e tempo da investire nella lotta, negli affetti, nelle cose belle del vivere libero. La società capitalista non dà tregua. Ho rifiutato questa logica. Ho preferito cercare la vita nelle idee di libertà e di conseguenza di mettere in pratica la ricerca di un emanciparsi da questa società autoritaria e malsana. Dove il caso è ignoto, l'incontro inaspettato, sono esperienze di vita genuine, perché non mediate, dove lo stupore è ancora intimo e sincero. Quando si incontra uno sconosciuto e si percepisce che si hanno delle visuali simili, mi è capitato di fare discussioni profonde che ti fanno capire che c'è un pezzo di umanità che percepisce gli stessi problemi e che ha voglia di cambiamento. La dimensione del latitante mi ha fatto assaporare persone mai viste, incontrate per puro caso, ma che, anche se per poche ore, si è condivisa una discussione, mi rendeva la solitudine e la distanza dei miei affetti meno pesante. Mi ritengo fortunato perché godevo dell'incontro non mediato dalla merce, dal soldo, dallo schermo. Questa cosa la trovo preziosa di questi tempi. Ho potuto camminare liberamente, dove il viaggio non era toccato per forza dai tempi del mezzo di locomozione. Se per arrivare da un punto A a un punto B una persona normale ci mette mezza giornata, io a volte ci mettevo 3-4 giorni. Un continuo studio per evitare brutte situazioni e luoghi non molto puliti per i canoni di sicurezza che avevo scelto. Anche se evidentemente non è bastato. Questo modo di viaggiare, sicuramente faticoso, mi ha dato la possibilità di vedere la geografia dei luoghi e la struttura di villaggi e città in modo completamente diverso. Luoghi in cui si entra normalmente erano da me evitati, altri che normalmente non frequenterei mai, invece, erano i miei luoghi preferiti in cui mi sentivo tranquillo. Quindi il viaggio era fuori dalla sua valorizzazione, per come ce la vogliono inculcare. L'orologio è la misurazione astratta di una norma sociale imposta. Questa norma ci porta normalmente ad avere una gabbia perenne nel nostro modo di pensare alla quotidianità e romperla oggi, che è così pesante, è molto, molto difficile perché è socialmente accettata. Ma nella latitanza ho avuto modo in certi periodi di potermi dimenticare di queste norme. Potevo passare le giornate a fare mille cose senza dover rispettare nessun orario prestabilito. E l'orologio, per contro, è fondamentale in quella situazione. Ne avevo spesso due, infatti, perché in certi momenti non puoi mancare o sbagliare. Bisogna essere il più possibile precisi, quasi al minuto. Altro che telefonate o scrivere in un social, scusa, arrivo in ritardo. La parola data, magari 3 mesi prima, era fondamentale. Se non ci sei, possono passare mesi prima di rivedersi. Ogni viaggio richiede ore e giorni di studio. Qui dovrebbe farci riflettere un poco sulla potenza negativa del telefono sempre appresso e non solo per il suo ruolo di spia. La parola data non ha più valore perché è in ogni istante revocabile e devi accettare forzatamente che anche il tuo interlocutore, in pochi minuti, risponda. Se ci si pensa, è abominevole questa dinamica. La parola data, oggi in generale, ha perso qualunque valore sociale e densità del suo peso. Un valore che una volta era ritenuto sacro, che determinava la serietà di una persona. Oggi si parla tanto e a vanvera. Un'altra perdita è la memoria. Non ci si può portare appunti sensibili dietro, quindi devi spesso memorizzarli, praticamente sempre più in disuso. Chiedete a qualcuno dov'è una via, in molti guardano lo smartphone e vi chiedono perché non lo chiedete alla vostra protesi tecnologica. Una delle doti umane più affascinanti viene raggrinzita, accantonata, atrofizzata, perché è ritenuta faticosa, superflua, e così ci si impigrisce. È il mondo della mega macchina che avanza fin dentro i nostri corpi, dove le protesi meccaniche, virtuali, biotecnologiche ci rendono servizi sempre più disumani e privi di una coscienza morale che ci ponga dei limiti rispetto ai più gravi problemi etici e politici con cui questa società di guerra e sfruttamento ci attanaglia. La strategia della sorveglianza dello Stato per proteggere i privilegi padronali è ormai capillare ed intima, fino a convincere che certe strade di ribellione, di costruzione di un tessuto sociale rivoluzionario, di immaginare un mondo diverso, basato su principi di uguaglianza e libertà, non sono più auspicabilmente possibili e cercati. Non è così. Bisogna rompere in profondità le catene, scrollarsele di dosso. Desiderare ardentemente il senso del perché è necessario lottare strenuamente per mettere fine alla brutalità di una vita priva delle più sane relazioni umane, per un'unione ancestrale con la natura nostra fonte di vita, per una fratellanza e sorellanza che ponga fine a tutte le ingiustizie. La latitanza dà il tempo della riflessione, cose che a volte manca nel ritmo quotidiano della lotta di ogni giorno. Ecco allora che avere un fuoco davanti, con attorno il profumo del muschio, un vento fresco dietro ed un cielo stellato, creano una dimensione in cui il pensiero trova una calma piacevole per ripetersi in testa un piano d'azione. Ricordare un amico, la compagna di vita, chi non c'è più, Ripensare al cammino da fare il giorno successivo, guardare una mappa, mettere a tacere le paure e le apprensioni. Il fuoco è un gran amico che tiene compagnia, anche se spesso è malinconico, esso tocca corde profonde, la sua luce così calda e mai uguale non ha niente a che vedere con il neon o un LED. Il fuoco ti può ipnotizzare per ore senza mai stancarti a guardarlo. Per me sono stati momenti arricchenti e non nascondo le difficoltà, ma in questa società, per rimanere liberi, bisogna anche saper soffrire e dotarsi degli strumenti interiori e materiali per tutelarsi. E conclude il compagno Stecco. Io ora sarò anche in galera e, come detto, mi ero preparato a questo evento, ma avevo e ho la convinzione che nulla sia finito. La galera è solo un'esperienza che si stratifica nella lunga strada della lotta per la libertà, anche quando avvengono fatti gravi e tristi. Ed è con questo spirito che la affronto, e non saranno queste mura, questi visi tristi e le loro angherie in uniforme ad imbruttirmi. Perché non credo solo nella giustezza della violenza rivoluzionaria, ma anche nel gesto gentile, nell'esempio, nel consiglio, nella parola di conforto, nella fratellanza tra sfruttati e nella cospirazione per liberarli. Sì, è tempo di riprendere in mano le nostre esistenze, anche cercando strade difficili, non scontate, quindi imprevedibili per i nostri nemici. E se si cade in errore, ecco che la propria esperienza porterà più saggezza e strumenti a chi ne raccoglierà la sfida, perché ne sente l'esigenza. È tempo di organizzarsi, di tracciare nuove rotte consone alle esigenze della lotta nella società di oggi. Dove c'è rassegnazione, portiamo la volontà di rivoltarsi e dare il ben servito a chi continua a perpetuare un sistema di morte e veleno. Diamo gambe, strumenti ed idee alle nostre tensioni che ci vibrano dentro. Rompiamo gli argini della paura e dei nostri limiti, con le genti di Gaza nel cuore. 7 marzo 2024, carcere di Sanremo. Luca Dolce, detto Stecco. I Bene, stiamo ascoltando in sottofondo questa band tedesca, esattamente di Bonn. È una band che esiste da circa 10 anni e noi ci stiamo ascoltando questo loro ultimissimo album. Ah, tra l'altro non ho detto il nome della band, loro sono i Fucking Hungry. E questo è proprio l'ultimo loro album che è uscito qualche settimana fa, si chiama appunto Still Fucking Hungry. Stiamo ascoltando ancora questi Fucking Hungry, band tedesca della zona di Bonn, e come detto prima, disco, questo loro album recentissimo, proprio uscito poche settimane fa, che si chiama Still Fucking Hungry. Poi volevo anche ricordare che in precedenza, inizio intervento, abbiamo anche ascoltato una band italo-inglese che si chiamano Fulmine, che comunque non sappiamo darvi altre notizie in merito. Allora, siamo sempre su The Riz Magnetics, non so se l'abbiamo detto in mezzo per chi si fosse magari messo in ascolto solamente adesso. E appunto The Riz Magnetics, boh, un ricordo che è una trasmissione autogestita e così portata avanti dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e di Trieste, e che la radio Onde Furlane ci ospita. Allora, questo così lungo, articolato e generoso contributo di Stecco mi ha fatto così venire ricordare un libro che appunto raccoglie tutta una serie di testimonianze di compagne e compagni che hanno fatto l'esperienza della latitanza. Un libro che ho letto 10 anni fa, ma comunque, e ho ripreso. Questo libro si intitola In Incognito, esperienze che sfidano l'identificazione, ed è un libro della cassa, edito dalla Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. E una prima volta nel, mi pare all'inizio degli anni 2000, sì, nel 2003, e poi appunto più o meno nel 2013. Allora, in questo Stecco ci raccontava di questa dimensione anche malinconica, no? Del fuoco, insomma, così dell'essere in solitudine, però in un contesto naturale, quindi di cui si fa parte, diciamo, ma comunque di essere al cospetto di se stessi, ecco, in maniera profonda. E anche quest'altro racconto così che ho selezionato, che si intitola Esperienze bandite, così affronta, fa emergere questo aspetto della malinconia, poi anche altre cose, e questo aspetto anche dell'essere, del provare appunto a essere all'interno dell'ambiente naturale senza, diciamo, paracaduti, insomma, senza sistemi che ti proteggono in qualche maniera. E beh, intanto questa testimonianza, Esperienze bandite, appunto, inizia con dei versi di Leo Ferré, che dice: hanno bandiere nere della speranza e la malinconia come compagna di danza, hanno coltelli per tagliare il pane dell'amicizia e sangue pulito per lavare la sporcizia, gli anarchici. E ci dice questo compagno, ho avuto l'occasione di sperimentare in vitro, cioè per periodi tutto sommato piuttosto brevi, alcune forme di bando, latitanza, carcere, esilio. Pur trattandosi di condizioni imposte tutte dalla repressione, sono esperienze di vita molto diverse tra loro. Ne parlerò qui in quanto esperimenti sulla libertà. Più che sugli aspetti pratici, però, mi soffermerò su alcune delle riflessioni che simili circostanze mi hanno suscitato. Farò riferimento ad una dimensione forse più interiore, per trarne qualche considerazione più generale. È un modo di procedere che mi riesce congeniale. Per carattere, infatti, sono portato a ricordare dei tanti avvenimenti che mi è capitato di vivere, le idee che mi hanno regalato e quelle che chiamerei le tonalità emotive. Dovrò ricorrere al racconto, al ragionamento più articolato, all'appunto fugace. Citerò talvolta parole d'altri, ma unicamente perché quelle parole hanno avuto per me, nelle occasioni raccontate, una importanza decisiva. Solo un eco, anche lontana, nell'esperienza del lettore potrà distinguere queste note da un semplice esercizio letterario. L'esperienza più estrema che ho vissuto non è legata alla privazione della libertà e nemmeno alla paura. In una poesia scritta in guerra, Ungaretti dice di essersi sentito un giorno una docile fibra dell'universo. Mi è capitato qualcosa di simile. Il poeta, tuttavia, usa quell'espressione per indicare una sorta di comunanza con l'universo, mentre per me si è trattato di uno sconvolgente smarrimento. Ricordo che quelle parole mi parvero subito le più adeguate. Certe corrispondenze mentali, con il cuore che palpita, sembrano spingere le idee in uno strano universo che si chiama intuizione. Per orgoglio, fra me e me, cambiai docile in fragile, cercando di convincermi che quella era la parola usata dal poeta, ma io non mi sentivo solo fragile, mi sentivo proprio docile. Perché? Mi ero smarrito in un bosco, cercando di ritrovare la strada, sono caduto in un dirupo. Fortunatamente lo zaino mi ha impedito di rompermi la schiena. Tuttavia sono rimasto bloccato a causa del dolore per una notte e un giorno sul letto di un torrente in secca. Ben presto mi sono ritrovato senza cibo e senza acqua, con le giornate passate ad arrampicarmi in cerca di un punto da cui orientarmi e una notte trascorsa sotto la pioggia, dopo 4 giorni, iniziai ad avvertire, oltre alla fame e alla stanchezza, delle strane vertigini interiori. Ad un certo punto i diversi lati del mio carattere cominciarono a discutere e litigare fra di loro, come se fossero persone distinte. Questi dialoghi erano così intensi che ogni volta che mi risvegliavo, dopo essermi appisolato, con le gambe attorcigliate attorno ad un tronco per non cadere, non mi ricordavo più se avevo incontrato davvero qualcuno oppure se avevo solo sognato. Tra le varie voci, 2 erano le più ricorrenti, quella del pessimista e quella dell'ottimista. La prima si accaniva contro la goffa ingenuità dell'altra, con argomenti che non potrò scordare. Lo scontro verteva soprattutto sul rapporto fra la natura e l'uomo. L'ottimista interpretava le forme del bosco, alcuni rami, certi passaggi tra i cespugli, come se fossero dei segni, magari l'indicazione di un sentiero, e il suo cuore si rallegrava. Il pessimista si faceva beffe di un simile rassicurante antropomorfismo, cosciente che un bosco non dà segni a nessuno, semplicemente è. Ma l'ottimista non demordeva, creandosi delle piccole divinità, tutte sue, come compagne di cammino. Fu scivolando con un piede, mentre mi trovavo su di una roccia spiovente a qualche centinaio di metri d'altezza, che mi sentii, come dicevo, una docile fibra dell'universo. Capì d'un tratto che la libertà spesso è solo una questione di equilibrio. Tanti desideri, tanti progetti, tanti discorsi sulla potenza dell'individuo che trasforma la propria vita. Qualche centimetro più in là con il piede ed è tutto finito. In modo patetico rimpiansi di non poter scrivere nulla a quel mondo dei miei simili, sui cui fragili confini ancora procedevo con passo insicuro. Ebbi la consapevolezza acuta che la parola è un farmaco nella duplice accezione che tale vocabolo aveva per i greci, vale a dire medicina e allo stesso tempo veleno, che ci tiene fuori da quell'assolutamente altro che è la natura. La natura selvaggia, contrariamente a una certa immagine da rotocalco primitivista illustrato, è un luogo terrificante perché muto, luogo della totale comunanza e insieme della più perfetta solitudine. Anche la solitudine estrema è un farmaco, poiché, a ben vedere, è essa stessa un rapporto al quale gli altri partecipano nella forma dell'assenza. Mi sono ritrovato sdraiato sulle pietre di quel torrente in secca a pensare alle frasi che in tale circostanza avrebbero detto i compagni che conosco, ed ho riso di un riso pieno e sereno. I miei compagni. Le parole come farmaco, uno dei rapporti più intensi con la teoria, l'ho sperimentato una sera in cui, per necessità, ho acceso un fuoco con un libro su Hegel. È difficile descrivere la mia esitazione nello strappare le pagine, così come i pensieri attorno al fuoco o la luce sotto cui mi è parsa la dialettica hegeliana, piegata ad un uso così insolito. Non a caso, ho capito, Eraclito, l'oscuro, vedeva nelle fiamme l'espressione sensibile del divenire della realtà. Logica non resiste a chi vuole vivere, dice da qualche parte Kafka. Mi sono ripromesso di ricordarmi sempre di quello che ho provato su quella roccia, ogni volta che avrei parlato con voce sicura delle lotte e delle scelte radicali. La vita, invece, con le sue illusioni necessarie, mi ha spesso tenuto lontano da quella consapevolezza circa la mia docilità rispetto al mondo. Con una simile coscienza sempre sveglia, infatti, non si potrebbe agire. Cosa distruggere e cosa costruire, non sapendo se saremo ancora là un passo dopo? Anche quando ero in carcere o in esilio, mi sono ripromesso di fare al mio rientro tante cose. Naturalmente non è stato così. La vita ti assorbe e ti fa dimenticare i pugni in faccia. Eppure quel senso di vacuità del tutto, me ne rendo conto, si è infilato in me stesso, come una nota che accompagna di nascosto ogni mia affermazione certa. Se ascoltassi di più quel demone rupestre, parlerei molto meno. Sulle rocce, senza vegetazione, dove fanno i nidi le aquile, ho assaporato quanta forza può infondere la possibilità del suicidio. L'idea che in qualsiasi momento puoi dare la buonanotte ai suonatori rende meravigliosa la vita. Vai avanti, osa ancora, tanto nessuno ti può obbligare a vivere. Con la voce caparbia di un simile demone, possiamo affrontare tutti i nemici, perché sulla punta accominata di questa coscienza crolla ogni ricatto. Sull'orlo di un invitante precipizio, nell'assoluto di un punto vuoto dove scompaiono le finzioni e conta solo ciò che conta, ho conosciuto l'amore senza riserve. L'ottimista, insomma, con ragioni che la ragione non coglie, aveva avuto la meglio. Ho sentito dentro la più incontenibile euforia quando di notte e sotto la pioggia una specie di voce cosmica, un mio personale Mefistofele, mi propose un patto. Se rinunci alle tue idee, ti porto fuori da questo bosco. Euforia, dicevo, ho provato allorché rifiutai l'offerta. Retorico persino nel delirio, penserà qualcuno. Come che sia, anche le nostre allucinazioni rivelano chi siamo. Sembrerà strano, ma la latitanza è per me, in buona parte, racchiusa nell'esperienza che ho raccontato. Il resto è un insieme di dettagli. Ci ricordiamo davvero solo di ciò che ci ha sconvolto. Ho capito, ascoltando i vari me stesso che nel bosco si azzuffavano fra loro, il senso dell'affermazione nicciana secondo la quale ciò che chiamiamo io è solo un'illusione della grammatica, essendo la nostra vita uno spazio attraversato da innumerevoli potenze in conflitto tra loro. Mi sono ritrovato spesso in seguito a riflettere sul concetto di identità. Quello che davvero ci spaventa è l'assenza di controllo su ciò che ci circonda. Non ho dubbi sul fatto che i pochi giorni nel bosco mi hanno segnato molto più di quanto non abbiano fatto i mesi trascorsi in galera. In galera, perlomeno nelle condizioni che ho vissuto io, tutto è, o sembra, sotto controllo. Certo, sei privato della libertà, senti l'odio per i tuoi carcerieri, eppure tu da un lato e loro dall'altro, tutto si ripete uguale, permettendo i tuoi sia pur minimi progetti. Insomma, ci sono dei codici. Fra il detenuto che l'introietta fino a diventare parte dell'istituzione totale e il rivoltoso che non vuole abituarvisi, le differenze sono enormi. Eppure anche la condizione del ribelle più risoluto si serve di determinati protocolli. In certe situazioni invece i nostri codici saltano perché nulla, nemmeno la nostra mancanza di libertà, è sicuro. L'assenza di ogni garanzia avvicina, credo, alla follia. In questo senso ho intravisto meglio la portata reale di una critica radicale della psichiatria. Mi sono svegliato spesso di soprassalto, con la paura di essere senza acqua. Ed è stato in quei casi un piacere indescrivibile avere una bottiglia vicino al letto. Non ho quasi mai sognato, invece, il carcere. E continua quest'altro compagno raccontando della sua esperienza di clandestinità. La clandestinità è un'esperienza di relazioni forti, di grandi complicità, ma anche di profonda solitudine. A farti visita è spesso il demone della nostalgia, il quale fa affiorare ricordi che credevi ormai sepolti. Un lontano amico d'infanzia, l'odore della bottega dove andavi da piccolo, un'innamorata ai tempi dell'adolescenza a cui inventi una storia tutta tua o magari la bella passante del giorno prima. E poi parole, luoghi, canzoni, tutto sembra un'immensa congiura per farti sentire malinconico. Che strano mondo quello della nostalgia, che può rendere dolce a un anarchico errante persino un'insulsa canzonetta di Sanremo. Penso che tutti conoscano per esperienza la differenza fra tristezza e malinconia. La seconda è un sentimento di color nero, ma d'un nero che nutre. Avete mai notato come i malinconici abbiano una gentilezza tutta loro, così scrupolosa e distratta? Presi dalla nostalgia per il proprio passato, sviluppano spesso una particolare sensibilità per gli sconosciuti, quasi a voler trasformare il vuoto in una promessa di felicità. Anche l'esilio è un po' così. Solo di recente ho prestato attenzione ai versi di Ferré citati all'inizio, ritrovandoli, singolare coincidenza, scritti a pennarello su di un muro. È curioso che gli anarchici vengano ritratti come malinconici, non trovate? Hanno bandiere nere della speranza e la malinconia come compagna di danza. Ecco, penso che la latitanza mi abbia trasformato in questo. Da allora il mio inguaribile ottimismo si è fatto più malinconico, come se l'accompagnasse una leggera melodia gitana. Ecco, come accade abbastanza spesso, c'è più succede che c'è più materiale, sì, più ci sono più cose da dire che tempo per dirle, vabbè. E allora passiamo da questa così da queste suggestioni, da queste emozioni anche che ci hanno dato i compagni raccontando le loro storie di clandestinità e le loro scelte, che sintetizzerei con questa così intreccio di lotta rivoluzionaria e gentilezza verso gli sconosciuti. E passiamo da questa appunto cosa insomma che nutre a una notizia invece sì che però avevamo pensato già nel sommario, insomma poi magari la riprenderemo in maniera più approfondita l'argomento, ma una notizia abbastanza sulle malefatte appunto di Leonardo e della rete ferroviaria italiana RFI, e cioè questi due colossi hanno firmato il 15 aprile 2024 un accordo per agire insieme per la movimentazione di risorse militari. Nelle settimane precedenti avevamo parlato insomma di questi treni brutti, diciamo, che hanno circolato per andare nel nord Italia, ma hanno interessato anche la regione Friuli Venezia Giulia, varie stazioni tra cui anche Udine, treni che portavano presumibilmente così armamenti verso est, quindi probabilmente verso l'Ucraina, che chiaramente hanno viaggiato in incognita. E quindi c'erano ritardi nei treni, diciamo, di passeggeri, insomma, o comunque comparivano in alcune stazioni, sono comparsi questi treni cisterne con locomotiva elettrica e non diesel, appunto, per evitare, insomma, per limitare il pericolo, diciamo. E c'è stato questo allerta, comunque questo allarme da parte di compagni e compagni che studiano in dettaglio queste faccende. E poi ti arriva questo accordo, quindi adesso le cose, diciamo, possono avvenire più alla luce del sole, senza procurare eccessivi allarmi nella popolazione, almeno così nelle loro intenzioni. Allora, praticamente questo progetto condiviso tra Leonardo S.p.A. e RFI è un progetto che riguarda l'ambito, dicevamo, della military mobility. È un'iniziativa dell'Unione Europea finalizzata ad aumentare la capacità di infrastrutturali e digitali esistenti per assicurare la movimentazione di risorse militari dentro e fuori dall'Unione Europea, anche con breve preavviso e su larga scala. E quindi praticamente questi due colossi del crimine, non mi viene da definirli in altro modo, hanno l'intento, si propongono di aumentare, diciamo, perfezionare la funzionalità della piattaforma digitale integrata di gestione della circolazione per il trasporto di materiale militare attraverso infrastrutture dual use. Ecco, questo insomma, quindi un ulteriore tassello della mega macchina e di questa così politica di guerra, di guerra interna ed esterna, di guerra pervasiva che stiamo vivendo insomma in questo momento storico. E niente, io per questa sera vi saluto e lascio la parola alla regia per un appuntamento che ci sarà sabato 4 maggio e niente, ci risentiamo il prossimo giovedì. Come on. Allora sfumiamo questo brano e ricordiamo, insomma, quello che stiamo ascoltando, anche se non è facile, perché per chi è stato, ovviamente, come tutti che si sintonizzano all'ascolto di questo programma, sono stati attenti, si sono accorti che tutti i brani erano, insomma, di sonorità differenti, perché tutti estrapolati da una compilation. Più che una compilation, si tratta di un disco tributo ad una storica band svedese che erano gli Anticimex, band che si era formata all'inizio degli anni 80, all'incirca l'81-82 in Svezia. Quindi noi abbiamo, da questo album uscito nel 2005, che è un tributo a livello internazionale, oltre una ventina di band all'interno, tra cui, così a caso, band che comunque abbiamo passato più volte in questo programma, dai Ratos de Porau, Wolf Brigade, Doom, Disclose, Detestation, eccetera eccetera. Insomma, è nata questo tributo a questa storica band hardcore. Quindi anche dirvi che brani abbiamo ascoltato è difficoltoso. Comunque vi dico tutto così. Tra l'altro è un disco uscito nel 2005 in Canada. Bene, ricordo che state ascoltando Tardis Magnetics, che è un programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, oggi 2 maggio, e questo programma viene così, va avanti grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine, di Friuli e Trieste. E appunto sabato prossimo questo collettivo, questo gruppo, insomma, organizza per sabato dopodomani 4 maggio, di fronte al carcere di Trieste, al Coroneo, un presidio con ovviamente vari interventi musicali e anche ovviamente interventi parlati eccetera eccetera al microfono. E poi nella serata ci sarà, tra l'altro dimenticavo, dalle ore 15 circa, 15:30, ci sarà questo presidio, mentre nel tardo pomeriggio in serata ci sarà un'iniziativa musicale, sicuramente un'iniziativa benefit e comunque contro la repressione, tant'è che viene dalla locandina così descritto Smash Repression, e dalle ore 18 in un locale Bibitando e Magnando a Trieste ci sarà questo concerto con le band Contrasto dalla zona di Cesena, i Firework di Bologna, poi due band locali triestine, Minoranza di Uno e gli Impatto, questo sabato dopodomani dalle ore 18 in poi a Trieste, come ho detto, al Bibitando e Magnando, che è un locale in via dell'Istria di Trieste. Bene, rimaniamo ora così ad un'ultima band, prima di anche darvi i nostri contatti soliti, se volete scriverci, eccetera, eccetera. Andiamo all'ascolto di questa band spagnola, loro sono gli Amor, e sono della zona di Valencia, questo è il loro ultimo album. We'll be right back. Bene, sfumando questi amor, perché siamo un po' tirati con i tempi, li teniamo comunque in sottofondo. Ricordo i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica fatelo tranquillamente a liberetutti@autistiche.org oppure scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre chi volesse riascoltare questo programma, ma anche quello delle volte scorse, può andare sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Inoltre salutiamo chi ci ascolterà domani sulla web radio Radiazione dalle ore 17 di domani. Quindi ciao a tutti, ricordo nuovamente l'appuntamento per sabato pomeriggio dalle 15 in poi, presidio davanti al carcere Coroneo di Trieste. Che ovviamente iniziativa importante che noi dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli Trieste organizziamo in quella città. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. E ricordo con questa band Amor, esattamente di questa bella città che è in Spagna, che non mi ricordo, Valencia. Ecco, ciao a tutti, al prossimo giovedì.